Radio 24 Reportage. Fiamme a Bagnoli, l'ombra della malavita sul rogo della città della scienza, di Carmelo Presti Simone. Il primo pensiero questa mattina è che sono crollate, sono bruciate, sono devastate le mura. Le mura che per noi erano anche il simbolo di un pochino del progetto, ma erano solo un simbolo. La realtà di questo progetto è fatta dell'idea, della gente, dell'impegno di tutti i lavoratori, del grande consenso che abbiamo intorno a noi. Tutto questo è intatto, anzi è cresciuto. Per cui ripartiamo, ripartiamo subito, ripartiamo meglio. Città della scienza. Vittorio Silvestrini, il presidente di Fondazione IDIS Città della Scienza, è commosso, ma anche arrabbiato. Una delle sue creature, lo Science Center, nato nel 93 con le altre strutture del complesso, non c'è più. Resta la carcassa dopo l'incendio, probabilmente doloso, l'antimafia indaga, divampato lunedì sera alle 21.30. L'ombra dei clan, la mano dell'uomo, dietro una vicenda che ha sdegnato tutta Europa. Eugenio Bennato, con suo fratello Edoardo siete stati cantori di Bagnoli, della periferia occidentale di Napoli. Come si sente, come si è sentito, qual è stato il suo primo pensiero dopo l'incendio a Città della Scienza? Profondamente colpito, innanzitutto perché succede nell'area più cara della mia infanzia e della mia fantasia, sì. Che io ho passato tutta la mia infanzia a sognare che quel mare diventasse bello e pulito e che quel posto diventasse un posto più attraente che non l'inaccessibile cantiere della Cementir, dell'Italsider e così via. E profondamente colpito anche perché l'edificazione di Città della Scienza è avvenuta grazie ad una persona a cui sono molto legato, che è Vittorio Silvestrini, che è stato mio professore di fisica e che poi ho rincontrato dopo essermi laureato, e insieme abbiamo vagheggiato appunto questo luogo di straordinaria, un polo straordinario di attrazione scientifica che è la Città della Scienza. Eccoci qui, siamo proprio tra le macerie, quello che resta praticamente dello Science Center a Città della Scienza. Siamo a Bagnoli, periferia ovest di Napoli, ed è naturalmente tutto distrutto, si avverte ancora l'odore acre del rogo divampato lunedì sera, resta la carcassa di quei quattro capannoni che formavano lo Science Center, e fa naturalmente tanta rabbia vedere una struttura così all'avanguardia distrutta, demolita, probabilmente per opera dell'uomo. Si segue la pista dolosa, vediamo i capannoni distrutti, le traverse di legno rotte, e fa tanta rabbia vedere uno spettacolo indecente, indecoroso. Di fronte c'è l'isolotto di Nisida, non lontano vediamo anche Ischia. Peccato, davvero peccato per quanto successo. Dalle ore immediatamente successive siamo ritornati al lavoro per cercare di far ripartire la struttura. Lei si renderà conto che di tutte le difficoltà del caso, server, elettricità e via dicendo. Lo sforzo è continuo e ancora ora siamo in una situazione chiaramente di emergenza, un po' come dopo un bombardamento. Siamo contemporaneamente leccandoci le ferite e contando i danni e cercando di far ripartire al più presto le attività e di sfruttare anche questa immensa solidarietà che ci è arrivata da tutta Europa. Ecco, siete 68, si parla di cassa integrazione, com'è la situazione esattamente? È evidente che comunque noi lavoratori già eravamo in una situazione di crisi pregressa forte, stiamo parlando di 12 mesi di mensilità arretrate. Si renderà conto che in questa condizione attuale andare a inserire anche un discorso di cassa integrazione, quindi di ammortizzatori sì, ma che non si sa bene esattamente da quando scatteranno e quando entreranno, lì ci saranno le entrate finanziarie a tutela dei lavoratori, è alquanto difficile. Sì, ancora nulla è definito, è stato pare proposto insomma un accordo per avere questa cassa integrazione. Insomma, speriamo quanto prima che si risolva e si capisca il nostro futuro soprattutto. Tutto la cosa che mi interessava di più dire in questo momento è il discorso di non fare la cassa integrale, ma di avere un sostegno valido affinché noi da qua possiamo rimanere in sede e operare affinché si possa portare avanti il progetto con le qualifiche che ci contraddistinguono, in modo da poter già da subito ripartire e dare un contributo alla città. Occorrono 50 milioni di euro per ricostruire tutto. 20 sono stati sbloccati dopo i contatti scattati tra i ministri Passera e Barca e il governatore Caldoro. Napoli sotto attacco, è stata abbandonata, ha detto il sindaco De Magistris, che denuncia quanto successo. Sotto attacco, perché chi colpisce in questo modo, con un incendio devastante, il giorno in cui c'era stato il crollo di un palazzo in città, un luogo della cultura, della scienza e dell'arte, non può che attaccare il cuore della nostra città. Napoli è nota al mondo ed ha una storia antichissima perché cultura, è arte, bellezza, è mare, è territorio. E quindi attaccare lì significa attaccare il cuore della città, una città che tra l'altro sta rinascendo, sta lottando, ha cancellato l'emergenza rifiuti, ha mille problemi, mille difficoltà, è stata anche lasciata sola economicamente. Quindi credo che l'attacco è frontale, si unisce a un periodo difficile dove già da tempo io avevo segnalato, un po' inascoltato, devo dire la verità, una strategia della tensione, qualcuno che gettava benzina sul fuoco, cercava in qualche modo di contrastare l'azione di pulizia che stiamo mettendo in atto. Quel lunedì nefasto c'è stato appunto il crollo dell'ala di Palazzo Guevara di Bovino e poi l'incendio a Città della Scienza. Due location, diciamo così, simbolo di questa magnifica cartolina che è Napoli e che, diciamo così, tracciavano anche il percorso, il nuovo campo di regata della Coppa America. Potrebbero esserci disagi per queste due vicende? Adesso ovviamente non va tanto e non ci va tanto di parlare di Coppa America. Sicuramente la forza di una città deve essere quella di ripartire subito. Noi abbiamo subito un lutto nella cultura e una ferita importante a Riviera di Chiaia, una tragedia sfiorata in termini lutto di vite umane. Però Napoli è una grande città, deve ripartire immediatamente. Non si deve fermare, deve lottare, deve essere sempre più viva. Certo, quel lunedì nero è emblematico, perché anche se i due fatti sembrano e appaiono scollegati tra loro, ci fanno molto riflettere, perché sono stati colpiti la mattina e la sera due luoghi simbolo della nostra città e anche della riscossa della nostra città. Bagnoli, periferia ovest, c'è Città della Scienza, c'era lo Science Center, c'erano le acciaierie dell'Ilva. E ci sarebbero dovuti essere, nell'ambito dei programmi di Bagnoli Futura, anche i Bagnoli Studios, un'area che doveva essere destinata all'allestimento di set cinematografici, che sarebbe stata gestita dalla Film Commission della Regione Campania. Dall'agosto del 2010 il critico cinematografico Valerio Caprara è il presidente. Bisogna sapere che nel progetto originario di Bagnoli Futura era compreso l'allestimento completo di un'ampia area, un vero e proprio cineporto che avrebbe dovuto accogliere le produzioni cinematografiche e televisive che a Napoli cercavano concorrenza, un grande background culturale e anche la possibilità di costruire film in maniera concorrenziale rispetto a Roma. Tutto il cinema è romanocentrico, ma a Napoli, a Bagnoli, si sarebbe potuto fare molto, molto di più. Al progetto aveva collaborato la Film Commission della Regione Campania e anzi aveva quasi siglato l'intesa per diventarne il gestore. Purtroppo tutto ciò si era bloccato molti mesi fa, purtroppo, e temo adesso che invece di riprendere forza un progetto che darebbe solo lustro alla città e anche occupazione ai tanti appassionati di cinema che ci sono nella nostra regione, non solo nella nostra città, temo che quest'altra grande ferita possa vieppiù bloccare questa bella storia che, come molte cose che succedono a Napoli, potrebbe restare un'utopia. Certo è che dispiace vedere Bagnoli individuata negli anni Ottanta anche dalla famiglia Agnelli per degli eventuali investimenti che mai poi ci sono stati, ridotta ad arida distesa dove non c'è nulla e dove ci potrebbe essere invece tutto. Il riscatto sociale ed economico di Napoli passa per le periferie, senza dubbi. Non può essere la Coppa America e i suoi catamarani a rinfrancare una zona che potenzialmente ha grandi risorse. Occorre il lavoro, gli investimenti, la fiducia che consente di valorizzare il territorio e di far crescere il benessere del luogo e di decidere sul suo futuro. Crederci non basta, serve soprattutto fare per sconfiggere quell'indolenza che a Napoli sembra insormontabile. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.